navigato mari e cieli contro vento, ho sopportato male bene ogni momento ancora. Mi fido della gente, ho stretto mani e scritto fogli col mio nome, ho regalato ad una figlia il mio cognome ed allora è la cosa più importante, perché ora sono a metà di una vita incoerente che un po' toglie un po' dà, ma lontano dalla metà va. Non finisce qui. Su questo palco dove è stato emozionante, senza un perché, scambiare musica col cuore e con la mente. Non finisce qui. E la chitarra suona ancora dolcemente. Non finisce qui. Ho visto strade grandi e piccoli paesi, i grattacieli e case con i panni stesi ancora. Io non ho visto niente. Ho avuto mille donne, amato solo una, con 100 macchine ho rincorso la fortuna e ancora ne ho da dire tante, perché sono solo a metà del mio viaggio impaziente che riparte da qua con la forza che l'amore dà. Non finisce qui. Su questo palco dove è stato emozionante, senza un perché, scambiare musica col cuore e con la mente. Non finisce qui. E la chitarra suona ancora dolcemente. Non finisce qui. E sai perché? Sono nato nuovamente. Senza un perché, scambiare musica col cuore e con la mente. Riparto da qui e la chitarra suona ancora dolcemente. Non finisce qui.